Euroreportage. Europa Salute. Cure per tutti e senza confini. Di Maria Luisa Pezzali. Nel paese più ricco del mondo. Io faccio tre lavori. Lei fa tre lavori? Sì. È molto americano. È sì. Davvero fantastico. La risata non è la miglior medicina. La mia compagnia di assicurazioni ha negato il rimborso perché il trasporto in ambulanza non era stato preventivamente approvato. Non so, quando dovevo farlo approvare? Dopo che avevo ripreso conoscenza in macchina, prima di salire sull'ambulanza? L'ingiustizia del sistema sanitario americano denunciato da Michael Moore in SICO non trova casa, per fortuna, nei sistemi sanitari europei. Anche la sanità comunitaria, tuttavia, si interroga. In quale misura i cittadini europei hanno uguale accesso a un'assistenza sanitaria di qualità? In tutti i paesi viene garantita un'uguale capacità di intervento e supporto ai pazienti nelle diverse patologie? Sono gli interrogativi di fondo dei programmi pluriennali d'azione in materia di salute messi a punto dalla Commissione europea. Il secondo, riferito al periodo 2008-2013, si avvicina alla conclusione. Il terzo, Salute per la crescita 2014-2020, partirà a gennaio con un budget di 446 milioni di euro e l'obiettivo di integrare gli sforzi degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari. Il tutto nel contesto della Strategia Europa 2020. Il piano per la crescita dell'Unione Europea in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, cambiamenti climatici e sostenibilità energetica. Promuovere la buona salute, mette nero su bianco il programma, fa parte integrante degli obiettivi di crescita intelligente e inclusiva della Strategia Europa 2020. Mantenere i cittadini attivi e in buona salute più a lungo ha ricadute positive sulla produttività e la competitività. Per la prima volta l'Unione Europea sottolinea dunque i legami esistenti fra salute e crescita economica. Il settore sanitario rappresenta il 10% del prodotto interno lordo dell'Unione. Occupa un lavoratore su 10. Per Oreste Rossi, membro della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare dell'Europarlamento, si poteva e si potrebbe fare di più. Il Parlamento voleva più fondi a disposizione per intervenire sulle linee di finanziamento nei confronti degli Stati e dei progetti europei. A oggi possiamo considerare in oltre 300 i miliardi di euro che la Commissione europea ancora deve agli Stati membri o al finanziamento di progetti già approvati. Purtroppo il Consiglio, che è la controparte del Parlamento, invece di dare fondi li ha tagliati. Quali saranno i nodi da sciogliere? Allora, nodi da sciogliere è trovare i fondi, perché purtroppo del nuovo bilancio, ve lo dico subito, circa il 90% dovrà andare a coprire spese già stanziate nel passato. Di quello che rimane, solo l'8% potrà essere utilizzato per nuovi programmi, il che significa veramente miseria nera. Il Consiglio ha preferito tagliare i fondi anziché implementarli, il Consiglio è l'altra faccia del Parlamento, per cui si presenta un settennato piuttosto povero. Di fronte a una situazione di crisi economica fortissima che non accenna a passare, specie nel nostro paese, invece di mettere fondi importanti a disposizione, purtroppo sono stati tagliati. L'Italia avrà il semestre forse più importante, perché è il secondo del 2014 da luglio, quindi il semestre in cui si affronteranno le tematiche più importanti dal punto di vista degli investimenti, di come utilizzare questi fondi, mi auguro che lo sappia utilizzare al meglio. Il problema principale è che oggi noi abbiamo 28 stati con 28 sistemi sanitari differenti e all'interno di ogni stato esistono regole differenti. In Italia, ad esempio, è regionalizzata, quindi ogni regione può avere un sistema differente. È evidente che in un caos di questo tipo l'Europa può fare poco, anche perché non ha le competenze piene sulla sanità, può solo dare delle linee guida o pretendere un'applicazione dei principi di uguaglianza fra cittadini, nel caso della sanità transfrontaliera, nell'altro caso sicurezza dei pazienti può intervenire solo dettando linee guida, che non sono obbligatoriamente recepite dagli Stati, perché un conto sono le direttive che devono essere recepite, se no si va in pena, in multa, invece le linee guida vengono indicate, purtroppo molti Stati fanno orecchie da mercanti. Lo scenario di pianificazione coincide con quello del settennato 2020 e con importanti novità che diventano operative proprio in questo periodo, come la sanità transfrontaliera. Il 25 ottobre scorso è entrata in vigore la direttiva comunitaria che prevede per tutti i cittadini europei il diritto a curarsi in ogni Stato dell'Unione. Molti paesi, però, come documentato da un dossier di Active Citizenship, la rete europea delle associazioni di pazienti, sono in ritardo con le norme di recepimento necessarie per rendere operativa la direttiva. Per i pazienti si tradurrà nel diritto di scelta tra più sistemi di assistenza, l'accesso a maggiori informazioni e a prestazioni di qualità senza attese bibliche, oltre che il riconoscimento delle prescrizioni oltre confine. Mariano Votta, responsabile per l'Italia di Active Citizenship. Il recepimento della direttiva necessita di un adeguamento consistente in molti paesi della normativa esistente. In paesi come Estonia, Lettonia, anche Austria, il lavoro a livello legislativo è stato molto corposo. In altri invece, come la Germania, i contenuti e i principi esplicitati nella direttiva erano già all'interno della normativa nazionale e quindi non hanno dovuto fare un grande lavoro. Che cosa cambierà una volta recepita in tutta Europa questa direttiva? La direttiva presenta un principio molto importante per tutti noi e per i pazienti in particolare, cioè il diritto ad ottenere cure anche al di fuori del proprio paese, fatto salvo esigenze di trapianti, di vaccinazioni e per le degenze di lunga durata. Questa opportunità è però subordinata ad una serie di fattori, innanzitutto ad una preventiva autorizzazione che il proprio paese di provenienza deve dare. Un altro aspetto che può essere limitante è il fatto che il cittadino deve anticipare dei costi per poi ottenere il rimborso dallo Stato. Quindi c'è un rischio che le opportunità che la direttiva offre possono andare a beneficio di chi, tra virgolette, se lo può permettere, di chi riesce a sostenere delle spese che sono comunque ingenti e che sono, da un lato, spese di carattere essenzialmente medico, ma dall'altro sono tutte quelle spese, parliamo del soggiorno all'estero, se può essere necessario avere un interprete che ci permette poi di comunicare nella lingua del paese dove andiamo, tutte spese che ricadranno sul cittadino e che lo Stato nazionale ha discrezione di rimborsare in parte e non in toto. Deve essere implementata nei singoli Stati nella maniera più ampia possibile dal punto di vista delle tutele dei cittadini. Questo è quello che noi chiediamo. Purtroppo abbiamo assistito ad una fase di recepimento lento, sostanzialmente nel silenzio e soprattutto, quello che maggiormente ci dispiace, senza il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e dei pazienti, che pure nella direttiva è esplicitato. La direttiva in particolare impone alle singole nazioni di istituire quello che è chiamato un punto di contatto nazionale, che deve servire fondamentalmente a dare informazioni ai cittadini, sia del proprio paese sia degli altri paesi, su quelli che sono i luoghi di eccellenza e prestazioni di eccellenza nel proprio paese. Ad oggi, purtroppo, questi punti di contatto nazionali, che tra l'altro ancora non sono attivi, comunque non hanno fatto registrare alcun coinvolgimento formale delle associazioni. La direttiva è una sfida per la qualità dell'assistenza. Se le disparità tra servizi sanitari europei non verranno sanate, gli stati deficitari subiranno la mobilità dei loro cittadini, che tenderanno a richiedere cure all'estero. Bisognerà evitare il rischio di un turismo sanitario per cure e farmaci. La direttiva avrebbe proprio tra i suoi obiettivi quello di omologare, innalzandoli, gli standard di qualità e di sicurezza delle strutture sanitarie. È una sfida per ciascun paese, anche all'interno del proprio paese noi conosciamo benissimo tante disparità, quindi è un po' una sfida a migliorare, omologare verso l'alto questi standard di qualità. Il turismo sanitario, mi permetta un'espressione che ovviamente non ci piace, perché è evidente che mette insieme due punti di vista completamente opposti, no? Il punto di vista di chi ha un problema di natura sanitaria è costretto ad andare all'estero per curarsi, non ha evidentemente quello spirito piuttosto che quella leggerezza d'animo di chi vive un momento tipico del turista. Detto questo, però, nasconde un'esigenza, l'esigenza cioè che molti cittadini legati a motivi di salute saranno spinti ad andare all'estero, e anche da questo punto di vista va migliorata tutto quello che sono le esigenze di cittadini che forse prima di oggi si erano spinti all'estero con meno frequenza, ora non sono avvezzi a quelle che sono anche i loro diritti di cittadini che si muovono all'estero. Anche su questo bisogna migliorare. Noi temiamo che sostanzialmente il recepimento in una tempistica non omogenea tra diversi stati degli stessi farmaci può spingere dei cittadini e dei pazienti ad andare all'estero proprio per recepire questi farmaci. Questo esporrà evidentemente lo stato di provenienza di questo cittadino poi a dei rimborsi molto, molto alti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.